Parliamo ora di una prima edizione del Festival in Divenire allo Spazio Diamante dal 3 al 15 di ottobre. Ne parliamo con Giampiero Cicciò che lo dirige. Intanto benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie, grazie a voi per avermi invitato. Raccontaci un po' di questa prima edizione, dici un po' tutto. Allora, sì, è la prima edizione di un festival che vuole valorizzare varie forme d'arte. È un festival dove c'è anche un premio, e il premio, ed è una cosa molto bella, infatti abbiamo ricevuto 107 candidature. Il premio consiste in 2 settimane allo Spazio Diamante di residenza per le prove, per la compagnia che vincerà, più il debutto con tutto ciò che comporta un debutto, e quindi la messa in scena, l'ufficio stampa, la promozione, e questo per una compagnia giovane è molto allettante. E i premi saranno sia per spettacoli di prosa, e ne abbiamo 14 in gara, sia per spettacoli di danza, ne abbiamo 7. E si chiama In Divenire proprio perché in gara ci sono dei work in progress che poi diventeranno appunto degli spettacoli definitivi, anche se di definitivo in teatro non c'è mai nulla. È anche per questo che io l'ho chiamato In Divenire, perché anche dopo il debutto uno spettacolo cresce, si evolve, migliora, oppure a volte anche peggiora rispetto al cinema. Ha questa dote per cui è sempre in movimento, mentre un film quello è e quello resta. Certo, certo. Senti, mi stava venendo in mente, visto che si tratta di 14, possiamo definirli studi di spettacoli? Sì, sono degli studi. Ok. Sono proprio degli studi. Visto che al Radioteatro ospitiamo spettacoli anche spesso volentieri integrali, che abbiano una, anche con preferenza per una tematica sociale, ti potrei dire di segnalarci eventuali lavori che possiamo ospitare tranquillamente qui il martedì in diretta dalle 14 alle 16. Assolutamente sì. E c'è uno spettacolo, a parte quelli in gara, sì, che ti segnalerò, ci sono anche degli spettacoli ospiti, sì, tra i quali ce n'è uno che ho voluto fortemente al festival, che si chiama Cosa significa convivere, ed è a cura di Claudia Donzelli, ed è una performance che è il frutto di un laboratorio con artisti italiani e giovani migranti dell'associazione Baobab, sì, e sono tutti migranti arrivati in Italia anche con i barconi, che si sono integrati perfettamente a Roma e che sono felicissimi di fare questa esperienza, e già oggi inizieranno il loro laboratorio, che poi il 6 di ottobre alle 19 con ingresso libero, sì, andranno in scena e faranno vedere il risultato di questo laboratorio. Bene. Senti Giampiero, come sono strutturate queste 2 settimane? Sono strutturate in prevalenza così, poi può cambiare qualcosa da giorno a giorno, ma di solito abbiamo il primo spettacolo in gara alle 19, sì, e il secondo spettacolo in gara alle 21, e dopo, grazie alla collaborazione di Francesco De Vecchis, che ha organizzato gli eventi collaterali al premio, ci saranno dei concerti di cantautori romani, oppure delle proiezioni di film organizzate dal Kino. Sono 4 film e 5 concerti, e quelli sono la sera alle 22:30. Okay. Poi l'ultimo giorno, il 15 ottobre, avremo uno spettacolo ospite al quale tengo molto, con Graziano Piazza, con la regia di Cesare Lievi, e anche quello parla di un migrante che vende le rose, uno spettacolo molto bello da non perdere, che precederà la serata di premiazione, che sarà alle 22 del 15 ottobre, mentre questo spettacolo di Piazza sarà alle 21. Senti, tutti i giorni della settimana? Tutti i giorni della settimana, tranne il lunedì dal 3 ottobre, okay, fino al 15 ottobre. Benissimo. Allora, ci lasci... Oggi si comincia con l'inaugurazione. Benissimo. Ci lasci anche tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla programmazione? Per sapere tutto della programmazione bisogna andare su www.spaziodiamante.it. Lo Spazio Diamante è uno spazio al Pigneto, sì. E ci tengo a dire che il motore di tutto questo è Alessandro Longobardi, che è il direttore anche del Brancaccio, della Sala Umberto, che ha voluto il festival e che mi ha chiamato per curare la direzione artistica. È lui il nostro Deus Ex Machina. Ok. www.spaziodiamante.it. Gianpiero, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo e grazie mille per questo invito. Ciao, a presto. Ciao. In radio, arrivederci, ciao.